Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, questa domenica siamo eclettici, sia dentro che fuori i confini nazionali, perché parliamo di due regioni che hanno tanto da offrire, molto oltre i luoghi comuni, il sommario. Ce ne andiamo in Austria, uno dei polmoni verdi dell'Europa, crocevia della storia. Poi un lungo salto fino in Abruzzo, dove tutto è a portata di mano. E infine nel Parco del Ticino, per osservare le cicogne. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Incastonata nel centro del vecchio continente, si potrebbe pensare all'Austria come a un ponte tra le due anime dell'Europa, quella dell'est e quella dell'ovest, perno della storia continentale che si continua a respirare nelle sue città. Oltre le città, però, c'è una natura piena di carattere. La nostra guida è Brigitte Resk, dell'ente del turismo austriaco. Dell'Austria sono molto note le città di Vienna, di Salisburgo, di Innsbruck, di Graz, che hanno tutte quante naturalmente il loro fascino un po' in tutte le stagioni. Certamente, diciamo, sono città verdi, sono città circondate da colline, montagne, quindi in estate c'è tutto il verde dei boschi che in inverno non c'è, però le città sono sia addobbate per il periodo natalizio, quindi hanno un fascino diverso e ci sono molti eventi naturalmente. Però quello che farei, al di là della visita di queste città più note, che in genere si visitano magari facendo un giro in auto, andando da una all'altra. Invece il consiglio, l'idea è quella proprio di non prendere l'autostrada, di prendere le piccole strade ed andare a scoprire i borghi meno noti. Ci sono tantissimi borghi storici, castelli, cioè andare un po' alla scoperta con l'idea che la strada è l'esperienza del viaggio, non è solo la meta, è anche aprirsi a queste scoperte, fermarsi veramente dove piace. Magari ci possono anche essere degli aspetti paesaggistici inattesi, un lago ghiacciato, ad esempio in Carinzia. Sono tantissimi laghi, specchi d'acqua che durante l'inverno a un certo punto ghiacciano, e anche tutto l'intorno, cioè gli alberi intorno, spesso sono coperti di franeve e ghiaccio, cioè è un'esperienza incredibile di luce brillante quando i raggi del sole cadono su queste superfici ghiacciate. Quindi veramente prepararsi un po' alla meraviglia della natura anche in veste invernale. Facciamo il caso che per comodità uno arrivi a Vienna in aereo. Secondo te quanti giorni sono necessari per vedere la città, per apprezzarne un po' anche, diciamo così, l'atmosfera, anche il mood che è quello di Vienna? Direi minimo 3 giorni. C'è un lungo weekend, si possono vedere tante cose fra magari in una prima visita, anche luoghi classici, diciamo, che sono un po' dei must, ma in 3 giorni resta tempo anche per la scoperta dei quartieri emergenti, magari collegati alla musica, perché l'anno prossimo Vienna si prepara a un evento molto importante, i 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven, che non è nato a Vienna ma ha passato gran parte della sua vita a Vienna, che gli ha scritto molte opere. Quindi andare magari a percorrere un po' degli itinerari dedicati a lui, ma scoprire anche come a Vienna la musica è molto molto presente al giorno d'oggi, quanti concerti si tengono, i luoghi dove si studia la musica, i luoghi dove si vive veramente la musica, che è una cosa molto anche vissuta dai giovani, perché ci sono tantissimi giovani da tutto il mondo veramente da tutto il mondo che arrivano a Vienna per studiare musica, quindi la musica classica vissuta al giorno d'oggi e non solo la musica classica. Visto che ci hai consigliato di non prendere la macchina e visto che siamo arrivati a Vienna in aereo, ti chiedo anche se gli spostamenti nel paese sono facili, che tipo, secondo te, qual è il modo migliore anche per apprezzare quello che è il percorso tra una città e l'altra o tra un borgo e l'altro? Sono ottimi i collegamenti ferroviari in tutto il paese. Tutte le città e i centri maggiori sono raggiungibili in treno ed effettivamente in inverno, quando magari il tempo può essere anche brutto o bello, diciamo, perché come si dice sempre, non c'è brutto tempo, c'è solo abbigliamento non adatto. Si vive l'inverno, chiaramente, magari non volendo guidare, effettivamente le ferrovie e il treno sono un'ottima alternativa. Siamo arrivati a Vienna, l'abbiamo girata, l'abbiamo visitata, adesso magari abbiamo voglia di capire un po' di più come è fatto questo paese, per cui lasciamo quelli che sono gli itinerari più classici o le città più note, più grandi, e andiamo un po' alla scoperta di quelli che sono, secondo te, anche i posti più piccoli che ci possono però dare anche una sfaccettatura della vera Austria, di come sono fatti davvero gli austriaci. Tu dove andresti? Anche a Vienna sono veri austriaci, sono veri viennesi. Vienna, diciamo che, ma al di là di questo, Vienna è un po' un melting pot. Ma al di là di questo, vicino all'Italia, consiglierei magari un itinerario in Carinzia, che confina con il Friuli Venezia Giulia, quindi molto facile da raggiungere, è piena di cose belle dove vivere l'inverno, fra borghi piccoli e i meravigliosi laghi, perché quando questi laghi ghiacciano, addirittura in Carinzia si trova il lago che diventa la superficie ghiacciata più grande dell'Europa centrale, ed è una cosa meravigliosa pattinare ad esempio su queste superfici ghiacciate naturali in mezzo alla natura. Cioè il patinaggio è bello nelle strutture chiuse, però è un'esperienza completamente diversa se vissuta all'aria aperta. Sempre in Carinzia, in tema di acqua, laghi, ghiaccio, c'è anche la variante calda, ecco, perché la Carinzia è anche un territorio di terme, di acqua termale, quindi ci si può immergere in queste acque termali calde, magari in luoghi panoramici, dove vedere il paesaggio esterno. Esistono addirittura delle strutture che si chiamano Badehäuser, vuol dire letteralmente case dove fare il bagno, che sono situate in riva ai laghi, ed è assolutamente un'esperienza meravigliosa trovarsi all'interno di una di queste case immerse nell'acqua calda e guardare fuori il paesaggio invernale. Do you think you can tell? Se tu dovessi descrivere il paese, come lo descriveresti? Non dal punto di vista del paesaggio o delle città, cioè se tu dovessi raccontare qualcosa dell'Austria e degli austriaci, che parole useresti? Ma la prima cosa che mi viene in mente è che l'Austria è veramente nel cuore dell'Europa, cioè lo è geograficamente e lo è davvero in tutti i sensi. L'Austria, pochi paesi come l'Austria hanno molti vicini, penso che siano, adesso dovrei fare il conto, ma credo che siano 8 addirittura i paesi confinanti, sono veramente tanti, cioè l'Austria si trova veramente al centro, quindi un po' fra nord e sud, perché so che dall'Italia viene sempre visto come paese del nord, che però a noi suona strano, perché penso che posso dire un po' per tutti che ci sentiamo veramente al centro. Quindi prendete anche o avete preso un po' da tutti, secondo te? Sì, sì, senz'altro. Cioè, ci sono nella cultura, nel cibo, ci sono tantissimi, diciamo, tantissimi scambi che hanno naturalmente anche motivi storici, perché essendo stata, diciamo, una monarchia per molti secoli, c'è stato molto scambio di popolazione, quindi anche di tradizioni, di cibi. Ancora oggi, secondo me, si vive molto, si sente molto questa posizione proprio al centro. A proposito di cibo, tralascio i dolci perché, vabbè, quelli sono veramente patrimonio dell'umanità e tutti noi li conosciamo, e è veramente un attentato quando si va in Austria, perché la linea va a farsi benedire, diciamo. Qual è l'esperienza culinaria che secondo te, appunto, oltre alla Sachertorte, bisogna fare, non si può saltare? Beh, in Austria c'è molta attenzione alla qualità del cibo, perché l'Austria, rispetto, diciamo, alla sua superficie, ha un'altissima percentuale di coltivazione biologica, e quindi si tiene molto alla qualità del cibo. E poi c'è molto interesse ai cibi tradizionali riveduti in una chiave, diciamo, più contemporanea. Quindi punterei proprio sulle esperienze di cibo locale, di cibo anche semplice, però dove i sapori vengono messi molto in risalto. E ci sono, ad esempio, per tornare alla Carinzia, in Carinzia ad esempio c'è la prima slow food travel destination, che vuol dire non solo gustare i cibi locali, ma insieme alle persone del posto imparare, ad esempio, come si preparano certi cibi. Si può, ad esempio, imparare a come si fa il pane, perché c'è un tipo di pane in Carinzia che la preparazione è anche un patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi ci sono queste possibilità di imparare insieme alle persone come si fanno, come si preparano dei cibi, ma anche molto semplici ma essenziali, come il pane, ad esempio. Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Un attimo di attenzione, una comunicazione dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Sono Nicoletta Carbone, ho una proposta per voi. Iniziamo insieme la giornata con obiettivo salute e risveglio alle 6:15. Poi alle 12, sempre dopo il GR, vi racconto le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. E subito dopo vi aspetto in diretta Facebook ogni giorno con un esperto a disposizione per parlare della nostra salute e avere indicazioni e consigli. Ci state? Allora mettetemi in agenda dal lunedì al venerdì, 3 appuntamenti quotidiani da non perdere. Perché? Perché la salute viene parlando. Globetrotter 24. I make a date for God, and you can bet your life it rains. Dall'Austria facciamo un grande salto fino all'Abruzzo, che è una regione che raramente conquista la scena, rimasta più isolata rispetto a molte altre e più a lungo. La posa della prima pietra dell'autostrada che la attraversa è del 1965. Collegamenti fortemente voluti dal democristiano Remo Gaspari, 10 volte deputato, 16 volte ministro. Un personaggio che in Abruzzo ricordano ancora come Zio Remo. Una regione che però le ha tutte: storia, mare, montagne e verde, tanto verde. Francesco Di Filippo è il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della regione. Una regione da scoprire, perché appunto troppo poco conosciuta rispetto alle sue qualità. Intanto un'autenticità, una particolare dell'Abruzzo, il fatto di avere montagne di 3000 metri con il mare, sia un po' selvaggio come la Costiera dei Trabocchi, come invece una zona ampia e sabbiosa come nella zona teramana. Però ovviamente in questo scrigno, in questa regione veramente ancora poco conosciuta, che la stampa internazionale indica come tra le 10 mete dove ritirarsi a vivere, e quindi non è un caso, troviamo paesaggi, natura molto forte e molto importante, un'enogastronomia, anche questa ancora troppo poco valorizzata e conosciuta, compreso un patrimonio vinicolo fantastico, di uno sviluppo eccezionale, borghi, persone, che non, genti e autenticità, che è proprio di un turismo di scoperta, di un turismo di esperienza. E allora ci accompagna all'interno della regione e magari andiamo a scoprire quel rifugio di cui mi parlava, da cui in giornate limpide si possono vedere due mari. Ma questa particolarità, appunto, dove veramente in una stessa giornata puoi fare delle cime alpine come lo è il Gran Sasso, andare al mare. Una notte tra le esperienze, ma tantissime, appunto, tra i cammini o la vacanza attiva, ma una notte svegliarsi nel rifugio Franchetti, dove con condizioni favorevoli è possibile vedere due mari, penso che non sia normale né facile svegliarsi in un rifugio alpino o appenninico, per essere precisi, e poter osservare i due mari. Così come nel Parco Nazionale d'Abruzzo, magari ascoltare i cervi, come in questo periodo i cervi in amore, un richiamo veramente suggestivo, o magari cenare su un trabocco, nella questione dei trabocchi, in riva al mare, e degustare le prelibatezze della pesca anche locale. Lei ha citato il Parco Nazionale, allora qui è necessario e d'obbligo, direi, ricordare che l'Abruzzo è la regione più verde d'Europa, e citiamo magari anche quelli che sono gli altri parchi, perché l'Abruzzo non ne ha uno solo. Bene, intanto diciamo che la particolarità dell'Abruzzo è di avere il 33% del suo territorio tutelato a parchi e riserve. Infatti, con tre parchi nazionali, quindi il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco della Maiella, il Parco del Gran Sasso, più il Parco Regionale Sirente-Verino, più 31 riserve naturali, fanno dell'Abruzzo la regione in Europa con la superficie, la maggior superficie tutelata. In più va detto, ed è molto importante, il fatto che in Abruzzo c'è l'80% della biodiversità di tutto il continente europeo. Torniamo ai borghi, perché magari non si ha voglia più di andare al mare, non si è molto pratici della montagna. L'Abruzzo però ha anche un patrimonio di borghi, borghi che sono anche rinati dopo il terremoto. Sì, fortunatamente, velocissimamente, il terremoto dell'Aquila ha colpito l'Aquila, che è in piena ricostruzione, anzi ormai finalmente sta tornando a nuova vita. I borghi, tra oggi abbiamo anche l'ingresso del 26esimo borgo nel club dei borghi più belli d'Italia, con autentici, con veramente anche lì accoglienza, enogastronomia, poi abbiamo i borghi autentici, i borghi bandiera arancione, veramente una ricchezza di questo Abruzzo interno, che ha saputo resistere a quella che è la globalizzazione o l'omologazione del turismo di massa, che per fortuna non abbiamo avuto, ma grazie alla tutela del territorio, a una tradizione, un'autenticità e un recupero di borghi. Non dimentichiamo ad esempio il borgo di Santo Stefano di Sessanio, dove è stato oggi uno dei primi, se non tra i primissimi, alberghi diffusi in Italia, che è questa forma di accoglienza diffusa all'interno del borgo, che mantiene anche a livello internazionale la denominazione, appunto, di albergo diffuso, cosa che ritroviamo anche in tanti altri borghi abruzzesi, e dove troviamo anche tantissime produzioni e prodotti tipici, e anche di tantissimi presidi slow food, che riflettono questa particolare tutela del territorio, e si trasforma in prodotti autentici che possono essere degustati ovunque in regione. Forse dobbiamo parlare un po' di più del nostro Abruzzo, siamo forti e gentili, ma teniamo un po' per noi queste grandissime qualità. Some shelter, but you don't bring. prossimo fine settimana, 1 e 2 febbraio, gli amici di Tra Terra e Cielo vi portano, se vorrete, nel Parco del Ticino a vedere la vita e le abitudini di un pennuto molto caro ai bambini e alle famiglie. Ce lo racconta Maurizio Baldini, responsabile dell'associazione. Questo è uno dei nostri classici che facciamo da anni e anni con una delle nostre guide più brave, che è Flavia Cheironi, biologa naturalista, insegnante delle scuole della natura, dell'amore per la natura ai ragazzini di scuole medie e scuole superiori. È un viaggio semplice e veloce perché parte da Vigevano, che si raggiunge in mezz'ora di treno da Milano il sabato mattina alle 10. Da lì si cammina lungo il Ticino, lungo stradine, sentieri, in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura, in mezzo ai campi irrigati dalle risorgive, da un sistema di irrigazione progettato da Leonardo da Vinci addirittura, che funziona ancora perfettamente, che permette appunto di avere una ricca raccolta di foraggio anche quando l'inverno è più freddo, perché l'acqua della risorgiva è l'acqua che viene da sottoterra, quindi non gela mai, e anche quando gela, anche se adesso con il riscaldamento non si gela più, e quando c'è questo sistema che permette appunto di irrigare sempre i campi in modo abbondante. Quindi sono camminando, la guida che è Flavia appunto ci illustra i sistemi di irrigazione, si passa vicino a un castello, ci fermiamo a pranzo, un pranzo al sacco in mezzo ai boschi del Ticino, si continua a camminare fino al ponte di barche che attraversa il Ticino, appunto un vecchio sistema di ponte basato su barche. Nei pressi del ponte di barche c'è l'oasi del Costello Venaria, che ospita da anni le cicogne migranti, praticamente le cicogne che dal nord vanno dal nord Europa, vanno in Africa oppure ritornano, fanno base nell'oasi. È una zona verde, una zona con molta acqua, quindi è una zona buona per le cicogne per fare tappa. Oltre a questo, alcune cicogne un po' anziane che non hanno voglia di andare in su si sono fermate lì, quindi in tutte le stagioni dell'anno è la possibilità al mattino presto di vedere le cicogne che arrivano lì, che fanno colazione, perché chiaramente lì c'è un'associazione che si chiama ARI e che nutre insomma queste cicogne con del cibo e quindi fa sì che siano curate, conservate e coccolate. Quindi si dorme lì, si fa una cena con cucina locale, notte prima colazione nell'ostello, la mattina della domenica 2 febbraio si fa un percorso abbastanza breve perché sono 15 km, quindi vuol dire 3-4 ore di cammino, si arriva a Pavia, si fa 4 passi per Pavia, si mangia qualcosina, si fa una merenda e si prende il treno e si torna a Milano, da dove uno arriva. Mi è molto piaciuto il fatto che hai parlato di cicogne che magari non hanno più voglia, o magari hanno un'età e non si vogliono più spostare. È così, perché è così. In effetti la domanda è come si fa, ma cosa fanno le cicogne con una certa età? Funziona un po' anche come ospizio delle cicogne, insomma. Comunque lì, ecco, oltre a Flavio ci sono delle persone di questa associazione che possono spiegare la vita dei cicli delle cicogne, insomma, e domandare dov'è che vanno a riposarsi le cicogne. Credo che sia appunto un viaggio anche adatto, se vuoi, anche ai più piccoli, no? Così è un altro esatto, modo per raccontare che le cicogne non portano i bambini. È interessante anche questo aspetto, infatti vengono spesso anche famiglie con bambini e che scoprono appunto cos'è che fanno le cicogne nella vita. Quindi cosa fanno davvero? E a quel cosa punto fanno davvero, insomma, che in effetti migrano in su e giù dall'Europa all'Africa e trovano in Italia, come molti viaggiatori, un posto ideale per fare sosta. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. In regia Carmelo Lauricella, a tutti voi l'augurio di una bella settimana.